la nostra associazione, la Casa del Mondo a Gebadia, è impiantata all'interno del quartiere Bolognina, quartiere Navile, zona Bolognina, e offre dei servizi per tutta la comunità e la popolazione, che è per lo più acer, abitanti acer, inquilini della zona. Noi facciamo dopo scuola, facciamo assistenza alle famiglie con lo sportello legale, svolgiamo una funzione sociale, in poche parole. In pochi anni ci siamo fatti voler bene. Siamo quella cuscinetto che ammortizza l'incontro delle istituzioni un po' con la comunità. Questa mattina mi recavo presso l'associazione per aprirla regolarmente e notavo la presenza di alcune persone che in genere non sono residenti, e chiedevo loro se avessero interesse, visto che guardavano la nostra associazione. Loro hanno negato il tutto, sono andato al bar, sono tornato e ho trovato la ufficiale giudiziaria di zona che, assieme a degli agenti di PS e tre tizi in borghese, si ponevano davanti all'accesso dell'associazione e così mi comunicavano che stavano eseguendo uno sfratto. Alla Casa del Mondo noi abbiamo un contratto commerciale con Acer che inizialmente con l'assegnazione era di 350 euro mensili, con gli aggiornamenti Istat più le utenze, l'aumento delle utenze del gas, siamo arrivati ad un canone di 500 euro, e a onor del vero da dire che la nostra compagine associativa sin dal primo momento del contratto di locazione con Acer non ha mai onorato il pagamento di tutti i canoni, motivo per il quale siamo stati attenzionati dall'Acer in quanto non avevamo onorato i nostri debiti, motivo per una parte delle istituzioni, questo nel mese di novembre 2023, che si sono impegnate nella persona del signor Maurizio Geiger, consigliere comunale, si sono impegnati a volgere una mediazione tra la nostra associazione e l'Acer affinché la nostra associazione non venisse sfrattata, quindi stilare, redigere, sottoscrivere un piano di rientro, e allo stesso tempo gli organi del comune, gli uffici comunali si sarebbero impegnati a trovare una soluzione per collocarci in uno spazio sempre in quella zona, che a noi è una zona che è agli occhi della ribalta perché c'è una grande attività di spaccio, di consumo, di persone che vivono per strada. Per cui la nostra associazione fa da presidio, dove non arrivano le istituzioni c'è la nostra associazione, motivo per il quale questo accordo vedeva il pagamento di un acconto che abbiamo depositato con i soldi della festa delle mamme e con i crowdfunding di 2.500 euro nel mese di maggio 2024, per poi ritrovarci dopo l'estate con ancora le difficoltà per mettere insieme il canone. Nel frattempo con il comune abbiamo provato a sollecitare dei riscontri in merito a quella situazione. Per cui oggi la situazione che ho trovato, secondo me, è stata originata su iniziativa di una sola delle nostre controparti, cioè l'Acer, perché il comune, una volta che io ho chiamato i nostri referenti lì al comune, mi hanno avvisato che loro non sapevano nulla di tutto ciò, e ci crediamo, e allo stesso tempo è successo un parapiglia lì davanti alla porta, perché l'ufficiale giudiziario voleva a tutti i costi eseguire lo sfratto senza darmi un momento per parlamentare, anzi invitando la polizia a spostarmi, ad aggredirmi l'ufficiale giudiziario, e allo stesso tempo non sapevamo nulla dall'ufficio legale Acer, di cui siamo soliti ricevere comunicazioni o altro, per cui è stato un tentativo di sgombero, di esecuzione forzata, di sloggio molto goffo. A seguito di questo tentativo di sgombero ho dato i miei documenti alla polizia. Io sono un soggetto cresciuto in Italia ma senza cittadinanza italiana, quindi assieme al passaporto mio ho dovuto dare anche il mio permesso di soggiorno, che è un cedolino, non è una scheda, cedolino di carta, dovete immaginare, nonostante sto qui da più di 27 anni, quindi lo sottolineo di nuovo, c'ho ancora un cedolino, e il poliziotto che mi controllava i documenti non mi ha restituito il mio permesso di soggiorno. Mi sono recato al commissariato le due torri, e lì mi riferivano che hanno contattato il poliziotto, e il poliziotto dichiarava di avermi consegnato tutti i documenti. Per cui, visto che sono un soggetto obbligato ad avere un permesso di soggiorno, sono dovuto andare dai carabinieri a chiedere di fare una denuncia, e l'ho fatta per smarrimento. Non denuncio io la polizia, non chiedo l'aiuto. l'aiuto delle forze dell'ordine in questo caso, però per tutelare la mia posizione sul territorio sono dovuto andare da carabinieri per dire e avere un atto giuridico, perché il commissariato non voleva prendersi la mia denuncia di smarrimento. Quindi è stata una mattinata molto caotica. Per fortuna questo sfratto, questo sgombero è stato scongiurato per il momento. È intervenuto, se non sbaglio, anche un consigliere comunale, Sidney Gash, sì, lo ringraziamo, esatto. Tutta l'associazione lo ringrazia. Però insomma la questione adesso non è ancora risolta. Voi dite non ci potete sgomberare, in corso c'era una trattativa. Esatto, è un po' questo il problema, che a onor del vero se c'è una trattativa si convocano le parti, non si va direttamente sul posto. Ecco perché secondo me sono comunque intervenuti subito sia Sid, pure la nostra cara Erika Capasso, ex presidentessa della fondazione nonché amica dell'associazione, si è attivata subito per farci da trade union con il resto delle istituzioni. Il problema è questo, e abbiamo un problema di spazi, abbiamo un problema di spaccio. La formula che offre la Casa del Mondo è di aprire quei locali chiusi ormai da tempo, giacenti con la polvere, di via Antonio Di Vincenzo, della titolarità Acer, per aprirlo al mondo dell'associazionismo, dell'attivismo, che è un ottimo antidoto verso il degrado. Cioè se noi siamo aperti è un po' difficile per chi spaccia, per chi è dedito a quel tipo di vita, di esercitare la propria attività proprio davanti a un posto dove ci sono anche i loro figli. Per cui noi questo chiediamo, l'appello è questo: siamo in recessione in Italia, abbiamo l'avanzamento di politiche scellerate che ci vedono sempre più disuniti come comunità, non abbiamo la possibilità di avere dei luoghi di confronto malgrado gli sforzi. Il nostro appello è quello di avere un'attenzione da parte della cittadinanza, di vigilare tutti quanti assieme, di essere soletti, attenti per sollecitare tutte le istituzioni, perché l'Acer non è un SPA, l'Acer ha la funzione sociale che guida tutta la ratio del suo regolamento, dei suoi regolamenti, che non sta rispettando.